Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qui giovedì 12 maggio 2011 con il sottoscritto Agostino Spolaore a tenervi compagnia assieme al mio fedele scudiero, posso chiamarti così? Sì, buonasera a tutti. Ciao Maurizio. Maurizio Calzavara, fedele compagno delle mie trasmissioni ultimamente, anzi da un po' di tempo a questa parte siamo sempre insieme io e te. Allora, questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita, come amo dire in questo momento, perché la state ascoltando, quindi diventa la vostra emittente che vi piace. Le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo i nostri numeri telefonici che potete usarli per o chiamarci in studio oppure mandare i vostri sms. Allora, per quanto riguarda chiamarci in studio è lo 049 875 6423. Se invece volete mandare degli sms anche per salutare gli ospiti che ogni volta facciamo sentire qui in questa emittente, in questa serata live, allora il nostro numero di sms è il 346 23 20 0 33. Abbiamo un sito e il nostro sito è www.bluradioveneto.it, semplicissimo, lì trovate tutte le informazioni inerenti agli eventi, ai live e anche quello che può capitare nella nostra regione, cioè il Veneto. Vi ricordo anche lo streaming audio, cliccando appunto nel nostro sito c'è un rettangolino rosa con scritto streaming, sotto c'è una freccia nera sulla sinistra, cliccando lì, ormai è diventata famosa questa freccia, Maurizio lo sai, cliccando lì sentite la radio in diretta 24 ore su 24. Inoltre abbiamo due pagine, perché noi siamo egoisti, ne vogliamo due pagine su Facebook, una è inerente alla radio, cioè semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra invece è Blu Radio Veneto Rock Wave, che è specialmente dedicata alla musica rock e soprattutto è gestita tra virgolette dal nostro direttore artistico, al quale mandiamo un caloroso saluto, cioè Alberto Prisco. Maurizio, benvenuto. Sì, grazie. No, più che benvenuto a me, benvenuti ai nostri ospiti. Buonasera allora, ai nostri ospiti. Abbiamo un pianista. Buonasera. Ciao Mario. Abbiamo un percussionista. Buonasera. Ciao Giovanni. Buonasera a tutti. E abbiamo un amico di questa emittente che ci è venuto a trovare già spessissimo, che è un chitarrista straordinario, si chiama Domenico. Buonasera. Allora, abbiamo Mario Locascio, Giovanni Squillaciotti e Domenico Calabrò, che sono venuti a trovarci questa sera per dedicarci un'ora e mezza di melodie, ho scritto sul sito. Per me siete melodici, avete un qualcosa di molto dolce, molto romantico, molto bello da ascoltare. Io posso definirli lo sperimentalismo tra la musica popolare e la musica classica, possiamo dire, musica sperimentale. Mario, cosa dici? Sì, sicuramente. Perché sperimentare, è la prima volta in assoluto che sperimentiamo musica popolare stasera, con un risvolto diverso però. Sì. Beh, diciamo che questo disco, questo progetto nasce come molte delle nostre cose, senza un discorso diciamo preliminare su cosa facciamo, cosa non facciamo, senza darci un'indicazione di genere, ecco. E, probabilmente rientra sicuramente nel filone della musica contemporanea, ma sì, molto melodica, sono sì, d'accordo, molto ascoltabile. E il live che sentirete invece stasera, che speriamo di riuscire a farvi sentire al meglio stasera, è già un'altra cosa, e lì sì, c'è entrata anche il nostro filone popolare. Sì, ma è importante questo live di stasera, filone popolare sì, però sono un live assolutamente diverso dal disco di Mario, che è un disco di pianoforte solo, è tutta un'altra cosa, grazie a Giovanni che usa delle percussioni molto particolari che io non conoscevo, sono molto contento di averle conosciute stasera queste percussioni, e Domenico che ha un tocco chitarristico molto particolare, molto diverso dai soliti, vero Giovanni? Sì, Agostino. Io lo conosco da un po' Domenico, sinceramente, l'ho sentito spessissimo nelle varie interpretazioni con i Sei Mani, con Andrea, eccetera, Andrea Paglianti, e lui è sempre stato uno che ha fatto sempre comunque, secondo il mio punto di vista, modestamente ovviamente, parlare la chitarra. Non so perché, ma c'ha un suono tutto suo, vero Domenico? Mi come dire, mi condividi? Grazie. E poi è un carissimo amico oltretutto, Domenico, insomma. Mario, tu nella presentazione che ho scritto io, ti ho presentato come il Michael Oldfield di casa nostra, perché suoni una infinità di strumenti, li elenchiamo velocemente, ma stasera suoni il piano, però non suoni solo il piano. No, intanto grazie per il paragone, insomma, eccessivo sicuramente, sicuramente eccessivo. Ma io sono tanti strumenti per passione, perché già da bambino, insomma, ho iniziato ad appassionarmi alla chitarra e anche al pianoforte. Poi è diventata anche un'esigenza adesso, nel senso che con i vari progetti e nei vari gruppi, i due progetti di Scanto e Mattanza, sì, esatto, e suono appunto strumenti diversi. Con i Mattanza sono le chitarre e la lira calabrese, che forse stasera vi faremo anche sentire. È uno strumento meraviglioso, ragazzi. Uno strumento meraviglioso, ho visto prima lira calabrese. La lira calabrese è una discendente della lira greca, arrivata proprio dalla Magna Grecia, dove noi abitiamo. Sì, ricordiamo che Mario è, appunto, sei calabrese, tu, giusto? Sì, io non sono calabrese, in realtà sono nativo della Basilicata, ma mi sento ormai un calabrese di adozione perché sono lì da tanti tanti anni, insomma. Quindi è in tournée qui da queste parti ed è venuto a trovarci questa sera. E mentre dicevo, il pianoforte è stato comunque il mio strumento prediletto, diciamo così, da sempre. Però questa è la prima esperienza, il primo disco da solista col pianoforte, e per questo devo ringraziare molto Domenico insieme a tanti altri amici, perché loro mi hanno spinto negli scorsi anni a tentare questa avventura del disco, appunto, di pianoforte solo. Insomma, questi brani erano lì senza uno scopo fino a qualche anno fa, poi anche grazie a loro, insomma, sono diventati questo CD. Sì, ma tu non sei solamente musicista, hai scritto musiche per cortometraggi, hai fatto televisione, hai fatto teatro, hai fatto musical, quindi hai fatto tante cose. Sì, io faccio il musicista di mestiere, quindi oltre alla musicoterapia, naturalmente, che è un'altra cammina parallelamente, insomma, alla mia attività musicale. E per cui cerco di fare diverse cose, un po' è un'esigenza, no? Di sopravvivenza, naturalmente, però devo dire che ho la fortuna anche di poter selezionare i progetti in cui lavorare, per cui anche col teatro faccio diverse cose, ho scritto diverse musiche per delle produzioni teatrali, alcune ancora in corso, e in alcuni spettacoli eseguo queste musiche dal vivo. Io l'ho sentito nel disco, è veramente molto, qualcosa di molto, molto bravo, molto decisamente bravo. Voglio solo dirgli una cosa: io prima ho parlato con Giovanni e mi ha spiegato le cose che io non sapevo sulle percussioni, poi ha parlato di percussioni arabe, molto interessante. Adesso, Giovanni, abbiamo qualche minuto per parlare della fase percussiva, che tu chiaramente stasera suonerai le percussioni, ma è una percussione un po' particolare, a cornice, così chiamata, tamburo a cornice, scusa. Sì, fondamentalmente sono degli strumenti a percussione, come hai già detto, ma essendo la famiglia molto, molto grande, diciamo, molto vasta come genere, e queste sono definite percussioni a cornice, tamburi a cornice, perché appunto hanno il diametro che è maggiore rispetto all'altezza del fusto. Per capirci, il tamburello con la membrana sopra è un tamburo a cornice. Appunto, io sono partito, ho iniziato questa ricerca partendo dal tamburello calabrese, che è uno strumento popolare in Calabria, e poi l'ho esteso tramite sempre questa ricerca a tutto il Mediterraneo, scoprendo che nel Mediterraneo ogni paese, ogni cultura ha un suo tamburo a cornice. Vedi. Ma dove si trovano poi? Sono nascosti in qualche angolo recondito? Che ne so? No, diciamo questi che strumenti, da una decina di anni, soprattutto con internet, tramite internet è diventato molto più semplice reperirli. Ci sono anche magari molti produttori, non necessariamente, diciamo, del Medio Oriente oppure africani, ma anche americani, cioè, che producono questi strumenti, quindi basta sapere i siti dove cercare e reperire questi strumenti. Diciamo, sicuramente non si trovano nei negozi di strumenti musicali. Infatti, per quello, infatti ci sono gli stranieri che li fanno per noi italiani, insomma. Sì, perfetto. Che bella cosa, no, questa. Noi che siamo maestri poi in queste cose. Sì, sì. No, diciamo che in Calabria, appunto, ci sono ancora costruttori che costruiscono il tamburello, ma è ancora nella maniera tradizionale, poco affidabili, diciamo, per suonare in situazioni live, quindi ci vuole una piccola evoluzione tecnica che appunto alcuni maker, alcuni costruttori hanno adottato. Certamente, quindi Agostino, siamo pronti, abbiamo sono pronto. Praticamente allargato tutti gli orizzonti, e adesso facciamo sentire il live, che è decisamente molto diverso dal disco solista di Mario, che è un disco che si chiama Luce Buia, è solamente per piano. Stavolta, stasera, in diretta assoluta, vedremo cosa sentiamo, cosa molto interessante. Molto cosa bello. Ci fate ascoltare allora dal vivo? Allora, il primo brano che abbiamo scelto è Dazzling Lights. È un brano che ho scritto ormai un po' di anni fa per partecipare a un concorso per un video d'arte di un bravissimo regista giapponese. Naturalmente non è stata scelta questa musica, perché c'erano in concorso personaggi insomma molto più quotati di me. E, però ecco, questo brano è nato anche lui insomma con questa occasione ed è stato inserito nel disco. Dazzling Lights quindi un po' parla di quel video, che era un video che trattava il mito giapponese delle ragazze in fiore, della primavera, che da loro è una cosa molto sentita, molto importante. Ok. Thank you. Che meraviglia, che dolcezza, che meraviglia, che bravo Mario, complimenti. Posso dire una cosa, cioè su un canovaccio di musica contemporanea, perché Mario praticamente giostrava sulla musica contemporanea, Giovanni si è inserito, fammi sentire un'altra volta il rumore, quasi di locomotiva che facevi con quegli strumenti che si chiamano? I crackers. E i crackers. Sono degli strumenti marocchini, sono dei crotali, diciamo, delle nacchere. E delle nacchere, sì. Di metallo, si chiamano crackab, servono, cioè, sono tradizionalmente usati per la musica gnawa, cioè la musica dei berberi. Ho capito. E una configurazione. Sembra una locomotiva praticamente. Certo, infatti il bello loro è che appunto suonano queste musiche molto energiche con questi pattern ritmici che appunto sembrano suonare un po' avanti e quindi molto trascinanti. Esattamente. Dunque, Mario praticamente giocava sulla contemporaneità. Tu giocavi per modo di dire, cioè, no, certo, giocavi musicalmente in inglese, diciamo, giocare in inglese sempre. E Domenico sperimentava tipo alla Brianino con quella chitarra, era un po' particolare. Io l'ho sentita così, non so se siete d'accordo. Sono sicuramente tutte indicazioni, tutti i riferimenti, i momenti azzeccate, sì, è anche un bel complimento intanto, grazie. Beh, ma è bello, è la prima volta che sperimenta una cosa simile qui. Passatemi una battuta, se mi permettete. Allora, c'era un famoso slogan di qualche anno fa della nostra cara amata mamma Rai e diceva di tutto e di più. Io posso dire questa sera che Blu Radio Veneto vi offre veramente di tutto e di più, perché abbiamo degli strumenti che non sono mai stati fatti sentire in questa emittente, e sinceramente sentirli dal vivo, proporli al nostro pubblico, credo sia una cosa molto ma molto bella. Grazie a voi, grazie di aver portato questi strumenti che sinceramente non io personalmente grazie a voi, non le sapevo invece di averci ospitati, anche perché in effetti forse per questi generi musicali appunto trovare ospitalità nei programmi radiofonici o anche in altre situazioni, insomma, non è semplicissimo, quindi grazie a voi dell'ospitalità. Beh, insomma, a noi ha fatto piacere l'invito, cioè la richiesta, insomma, che ci ha fatto Domenico, insomma, per te. Io ho aderito ben volentieri, insomma, anche perché è un piacere averti qua, Mario. Mario, tu hai avuto dunque un progetto con i Matanza, un progetto con i Discanto e un progetto da solista. Matanza e Discanto è una ricerca di musica popolare, soprattutto Matanza, visto che adesso è l'ultimo tuo progetto. E, allora no, dobbiamo distinguere, perché Discanto è stata un'esperienza che intanto adesso è terminata, diciamo in stand-by. Ma non era un progetto di musica popolare, era un progetto di musica dialettale, nato anche quello molto in maniera molto spontanea, appunto con Domenico Calabro molti anni fa e Valentina Sofio, che era il terzo elemento, diciamo, del gruppo, la cantante e percussionista del gruppo. E Matanza è un progetto invece che ormai è più che trentennale, che il suo leader appunto ci lavora da tutto questo tempo, è il cantante Mimmo Martino, e io sono entrato in questo progetto circa 2 anni e mezzo fa. Anche Giovanni si fa parte, ma lui già da prima di me faceva parte di questo progetto dei Matanza. Quello è un progetto di vera ricerca sulle tradizioni popolari calabresi, in modo particolare, non solo calabresi per la verità, e in modo particolare sui testi tradizionali che sono poi stati musicati, arrangiati nei 3-4 dischi, adesso non ricordo più quanti, sono stati pubblicati appunto da questo gruppo. Ho capito. E come mai hai deciso di fare un disco da solista con piano e basta? Beh, come dicevo prima, intanto il pianoforte è il mio strumento elettivo, insomma, è quello dove mi sento a casa. Sì. Io uso le chitarre, anzi, suono la chitarra. Anche la fisarmonica suona. Anche la fisarmonica, sì. Quindi dobbiamo sottolineare queste robe. Strimpello la fisarmonica. Beh, la suoni, la strimpelli. Diciamo che ho iniziato prima con la chitarra da bambino, però poi una volta avvicinatomi al pianoforte, quello è diventato il mio strumento, è lo strumento dove mi sento a casa, dove mi sento a mio agio più che altro. Con le chitarre faccio quello che c'è da fare, e ci devo mettere molto molto impegno, perché non è il mio strumento. Questo progetto è nato, Luce Buia è nato, come dicevo prima, c'erano questi brani composti in varie epoche, composti al pianoforte, che però stavano lì, erano una cosa molto mia, molto intima, insomma non ho mai pensato di farli diventare un progetto da trasmettere agli altri. poi, come dicevo prima, anche grazie a tanti amici, Domenico compreso, ti hanno spinto, che hanno ascoltato, hanno cominciato a sentire un po' questi brani, mi hanno detto, ma insomma, che ci fai questa roba, voglio dire, fai un disco perché sono belli, a loro piacevano, insomma, e per cui poi pian pianino ci sono messo a lavorare un po' più, con un po' più di impegno, e alla fine è venuto fuori questo disco. Esattamente, dobbiamo sottolineare una cosa, che stasera cioè riformi e trasformi determinati pezzi dal disco in versione live con quella band, insomma. Sì, comunque io la mia esperienza live è sempre stata, a parte le esperienze di piano bar, insomma, ormai lontane, e la mia esperienza live è sempre stata in gruppo, per cui non, dall'inizio non ho pensato mai al live di questo disco da solista. Certo, questo certo, non vuol dire che lo escludo, nel senso che può capitare anche una situazione di questo genere, ma io me l'ero già immaginato così e anche più di così, nel senso che questo è un progetto in evoluzione, per cui non escludiamo di aggiungere altri elementi, altri strumenti a questo live. Io ho una curiosità. Tu hai partecipato a un musical che io amo alla follia, cioè il musical che amo più di tutti è Jesus Christ Superstar. Come mai hai partecipato a questo musical? Cosa facevi, la parte di qualche attore? No. C'era anche Domenico. Cazzo, non lo sai, non lo sapevo, non me l'avevi mai detto. Una rivelazione. Domenico l'aveva mai detto. Una rivelazione. C'era anche Domenico e facevamo parte dell'orchestra che suonava. E io in quel caso suonavo il pianoforte nelle tastiere e Domenico le chitarre, ma è stata un'esperienza estemporanea, ci ha tirati dentro un carissimo amico che saluto, chissà se ci sente in streaming, potrebbe anche, dall'Australia, certo, il maestro Ivo Monte, che era un flicornista dell'orchestra di Piparo, che è quello che porta in giro Jesus Christ Superstar, quello ufficiale, diciamo, certo, così, certo, da ormai più di 25 anni. E niente, Ivo Monte, appunto, uscito da quella situazione, insomma, mise su questa compagnia per proporre un'altra versione, diciamo, di stato un altro punto di vista, ecco, del musical. E ci invitò a partecipare. Ma le musiche erano sempre comunque le stesse? Le musiche erano quelle, sì, sostanzialmente. Ma sì. Era itinerante questa opera, oppure eravate solo lì nella zona vostra? Purtroppo non furono fatte molte repliche, solo alcune in Sicilia, dove appunto era nata questa idea del maestro Monte. Perché un musical è una cosa complicata da portare in giro, molto costosa. Però fu una bella esperienza, perché tra l'altro i cantanti e attori erano veramente bravi. Molto molto bravi, sì. Ho capito. Maurizio. Facciamo sentire un altro pezzo, che sono molto interessato dai giochi tra chitarra, piano e percussioni, sono molto interessanti, quindi facciamo soltanto gioco, una cosa... chiaramente parlo di gioco dal punto di vista più alto del termine, quindi musicale, assolutamente musicale. Mario, che cosa vuoi far sentire adesso? Adesso eseguiamo Their Love. Il loro amore, che è un brano che ho dedicato a due persone a me molto care, che purtroppo sono affette da una gravissima malattia, che è la sclerosi multipla, e che si sono sposate e vivono da sole, con tutte le loro difficoltà, con tutte le loro fatiche. E questo brano vuole raccontare un po' questo amore diverso, questo amore particolare, così più faticoso di quello che possiamo immaginarci noi, insomma, vissuto proprio giorno per giorno. Blu Radio Sera. Thank you. posso dire che è un brano molto complesso questo qua, con molti colori, con molti quadri, con molte immagini, lentamente, progressivamente, una fase quasi, non dico identica al pezzo del disco, ma leggermente in tono molto sommesso. Poi il discorso cambia, si anima, si sviluppa, un vero e proprio sperimentalismo, secondo me. Non so se siete d'accordo. Sì, diciamo che molti brani del disco sono già come forma musicale, sono, possiamo definire delle suite. Esattamente. Dei brani composti, appunto complessi, nel senso composti da più parti molto diverse tra loro. E il live ha amplificato, diciamo, ha evidenziato e amplificato questa cosa, perché in alcuni brani come questo abbiamo aggiunto anche delle parti di improvvisazione, che non è ovviamente un'improvvisazione di tipo jazzistico, ma più contemporanea, se vogliamo. Molto contemporanea, se mi permetto. Sì. Molto contemporanea, almeno una fase finale era molto contemporanea, sì, secondo me, di questo pezzo. E quindi sì, insomma, questo aspetto è molto, molto evidente. È interessante, decisamente interessante. Non dico che sia un altro brano, però si sviluppa per cercare altre strade. E il live, le strade sono più belle che esistono quando si cerca nel live le strade, non so se siete d'accordo. No, certo. Poi tu, questo era lo strumento che usavi, si chiamava sempre tamburo. Sì, senza. Fa sempre parte del tamburo e cornice. A cornice, però aveva un suono diverso dall'altro. Questo, nella fattispecie, è un tamburo iraniano. Ecco, che perfetto. Deriva dall'Iran, tamburo molto antico, perché la civiltà iraniana è molto antica. Questo qui si chiama Daf, è il tamburo della musica sufi. Ah, ho capito. Molto spirituale come tamburo, e c'è un suono molto potente. Io ricordo Battiato, perché Battiato è un ama molto questo genere musicale. Ok. Benissimo, io l'ho trovato splendido questo pezzo. Sì, sì, sì. È la prima volta che usiamo determinati suoni qua dentro. Sinceramente mi trovo a non sapere cosa dire, perché sono veramente soddisfatto, secondo me. Veramente stupito da questi suoni così strani, perché noi non siamo abituati, sinceramente. Però è bello arricchirsi di nozioni in merito. Insomma, infatti, questo strumento che viene dall'Iran, in questa fattispecie, proprio non lo sapevo. Sì, Giovanni ha una serie di tamburi. Quanti ne hai portati stasera tu? No, sono 3 o 4. 3 o 4, beh, già ne hai usati 2, quindi. Ma quindi tu sei un collezionista di questi? Più che collezionista, perché collezionista già intende amare il feticcio, cioè solo l'oggetto. Certo. No, nel senso che ti piace. Sono un appassionato, quindi ricerco appunto strumenti fatti bene, strumenti che suonino soprattutto, che siano affidabili per suonare. Uno si aspetta che una band venga qui col cavo, noi invece ci troviamo questa serie di strumenti questa sera mai visti. È una cosa veramente splendida. Vi ricordo che questo è Blu Radio Veneto, anche se non vi sembra, ma state ascoltando la voce di Agostino e di Maurizio, che stanno cercando di farvi conoscere Mario Locascio e i suoi due, come dire, partner musicali, cioè Domenico e Giovanni, che ci stanno facendo compagnia in questa veste strumentale, per noi nuova, ma molto piacevole, molto gradevole. Siamo veramente onorati di farvela ascoltare anche a voi. Vi ricordo i nostri numeri telefonici qui in studio, è lo 049 875 6423, mentre il numero per gli sms è il 346 23 20 033. Devo sottolineare una cosa: in Verlove, in questo pezzo che abbiamo sentito nella versione dal vivo, c'era il piano chiaramente di Mario, e c'era l'inserimento della chitarra di Domenico, una specie di inserimento solista, quasi fai non dico una jam session in piccolo, però cerchi di fare un volo pindarico da solista con questa chitarra. Sì, diciamo che nella prima parte del brano in realtà è doppio il tema principale, e nella seconda invece, come hai sentito, insomma. Sì, hai utilizzato anche una tastiera, sì, praticamente. Sì, per cercare di cambiare, insomma. Sì, per cambiare, chiaramente. Cambiare aria. Fai sperimentazione anche qua, praticamente. Ci divertiamo. Anche noi. Benissimo. Mario, da come nascono le tue composizioni? Cioè, hai qualcosa che ti spinge in quel momento a suonare in quella determinata maniera? È un'ispirazione, qualcosa? Vedi un oggetto, una situazione particolare, sei per la spiaggia? Non so, sto dicendo cose così. Sì, no, sicuramente ci sono delle situazioni di vita vissuta, delle cose che si vedono, di cui si viene a conoscenza, che ispirano la musica, credo tutta la musica che viene composta, almeno io così mi immagino, così è per me. Nel mio caso specifico è quasi un'esigenza vitale. Io Credo che per un musicista la composizione sia la sua possibilità di espressione elettiva, appunto, cioè più che le parole, più che qualunque altra cosa. E quindi ci sono dei periodi in cui, magari preso da vari impegni, anche piacevolmente familiari, non riesco a dedicare il tempo che vorrei alla musica, alla composizione, e mi vengono delle vere e proprie crisi d'astinenza, insomma, diventa problematica in certi momenti, sì, anche perché poi il carattere ne subisce le conseguenze. Anche per te è sempre l'ora notturna l'ora più propensa a far musica? E di notte sono nate molte di queste cose, sì, la notte è sicuramente un momento ideale per la composizione, però io devo dire la verità, non disdegno la mattina. Io amo molto la mattina presto e il pomeriggio presto, anzi c'è un brano nel disco che si intitola In the Afternoon, che è dedicato proprio a questo momento del pomeriggio presto, che è un momento che io amo tantissimo della giornata, perché se si va in giro a quell'ora non si incontra quasi nessuno e c'è una specie di calma, di silenzio strano, e sembra che il posto dove vivi di colpo sia disabitato, cioè. E a me piace molto questa atmosfera, quel brano è dedicato proprio a questo. Bella questa immagine. Com'è nata la tua passione per la musica? Come ti sei accorto che sei un amante della musica? Come sei arrivato a suonare, a far musica? Anche tu, il papà ti ha regalato la tastiera da piccolo? No, no, no. E in realtà io non ho precedenti in famiglia, perché è strana questa roba qua. Non ho precedenti in famiglia, però già da bambino io amavo molto ascoltare la musica e cantare. Però diciamo questa cosa poi si è sviluppata molto da grande, e anzi la scelta di fare questo di mestiere è arrivata anche piuttosto tardi, diciamo, anche perché non è facile fare questa scelta, insomma, soprattutto in Italia non è molto semplice, però sono felicissimo, so che questa è la mia strada e non potrei mai tornare indietro, insomma. Non so, forse potrei raccontare l'aneddoto della mia prima chitarra, lo racconto sempre, è bella. Bene, bene. È una specie di barzelletta, sostanzialmente. Diciamo che a proposito del papà che compra lo strumento al figlio, insomma. No, io non ero molto supportato, diciamo, dei miei verso questa passione, tant'è che non mi mandarono neanche al conservatorio quando era il tempo. Io invece avrei voluto andarci, però io ero molto bravo da bambino a raccogliere le monetine, no? Facevo il mio salvadanaio e avevo raccolto questi soldi proprio con l'intento di comprare la mia prima chitarra, e quando andavamo a comprarla con i miei genitori, insomma, io avevo raccolto 28.000 lire, non so se mi spiego, erano tanti soldi a quei tempi, erano dei soldini. Andavamo a comprare questo strumento e questa chitarrina, che insomma andava bene, costava 13.000 lire. Mia mamma, come tutte le brave massaie, e doveva contrattare comunque, anche se i soldi erano i miei, bisognava contrattare. E quindi durante la contrattazione a me mi scappò di dire, ma insomma daglieli, sono 13.000 lire, io ne ho 28, e mi arrivò un ceffone di mio padre, e lì insomma ho capito che la musica era veramente un mestiere piuttosto difficile. Benissimo, a proposito di episodio, una cosa molto importante, anche significativa, bella, l'idea del titolo, che è nata da te, sì, ma in parte da te, è nata da un altro personaggio molto importante, tuo figlio Giuliano, vero? È così? Sì, sì, è così. Giuliano ha avuto una grossa parte in questo disco, devo dire, perché ha influenzato alcune composizioni del disco, ha creato lui, ha inventato lui questo titolo. Un giorno, entrando in casa, c'era questa giornata così con queste nuvole che nascondevano comunque un sole molto forte, per cui la luce passava comunque, e lui fece questo commento, disse: papà, oggi c'è una luce buia, creò questo ossimoro, insomma, che poi è diventato il titolo del disco. E beh, Giuliano, mio figlio, è parte della mia musica come il resto della mia famiglia, naturalmente, ma lui in modo particolare, perché lui ha un carattere molto particolare, ama molto la musica, ma è molto indipendente, per cui non mi sta neanche tanto dietro, io non cerco neanche di forzarlo più di tanto, lui fa le sue cose, si sceglie i suoi strumenti e già compone le sue cose, anche se ancora è piccolo. per le parole, le immagini, i pensieri e le emozioni, per l'incoraggiamento e i suggerimenti preziosi, per l'attesa impaziente, per lo spazio dato a queste mie note nelle performance e nel cuore, per le cose pratiche che mi aiutano a fare il mio lavoro e che non imparerò mai, per l'amore che mi spinge a volte oltre le nuvole di questo pezzo di cielo, dove raccolgo la musica e le parole come piccoli fiori viola e gialli al bordo di un prato. Che belle parole che hai scritto, Mario. Beh, è una dedica. I ringraziamenti in un disco sono l'unico momento in cui un musicista può fare un po' il poeta, certo. O almeno provarci. Però è bella l'immagine che dai qua. Sì, anche lì ci sono delle parole di Giuliano, devo confessare, perché il discorso di questo, il colore di questo pezzo di cielo era un'altra cosa che aveva detto lui. E sì, ci tenevo a ringraziare bene tutte le persone che veramente hanno dato una mano a realizzare questa cosa. E insomma, queste mi sono sembrate le parole, certo, migliori. Posso esprimere un mio modesto parere? Visto che c'hai questa vena tra virgolette poetica, perché non scrivi qualche canzone che come testo, non solamente come musica? Ma io in realtà ho scritto molte canzoni, però non ce le fai sentire la tua voce. Potremmo anche. ho scritto molte canzoni, però questa è una fase così. È da un po' adesso che non compongo, che non scrivo canzoni. Continuo a scrivere dei testi, quello sì. Continuo a scrivere dei testi, stanno lì, poi probabilmente alcuni di questi un giorno diventeranno delle canzoni. Però in questa fase mi sento molto più attratto e trascinato dalla musica strumentale, insomma. Cioè, mi sembra di riuscire a dire meglio le cose che ho da dire. Ok, cosa dici, Agostino? Facciamo sentire un pezzo da disco? Come vogliono loro, sono loro i... Siete d'accordo? Facciamo sentire una traccia da disco che hanno scelto precedentemente. Abbiamo scelto Napoli? Ci dici qualcosa di questa canzone? Ce lo dici dopo? Come volete. Ascoltiamo, poi ce lo dici. Ascoltiamo. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci ancora qua, 21:46 minuti. Oggi è giovedì 12 maggio 2011. Questa è la voce di Agostino con Maurizio. Ripeto, stiamo ascoltando e proponendo la musica di Mario Locascio assieme a Giovanni, che mi sfugge il cognome, Squillaciotti e Domenico Calabrò. Sì, questo era il pezzo Napoli. Vogliamo descrivere un momento, Mario? Sì. Napoli per me ha due fonti di ispirazione, diciamo, ha avuto due fonti di ispirazione. Una è il mio brevissimo viaggio di nozze di 3 giorni a Napoli, che per mancanza di tempo poi non se n'è fatto un altro. Sì, 28.000 lire. E l'altro è, vabbè, io sono legato comunque a questa città da ricordi di infanzia e poi mi interessano sempre le vicende, purtroppo non sempre felici, di questa bellissima città. E cito sempre questa cosa quando presento Napoli, il fatto che, non so quanti lo sanno, ma è l'unica città d'Europa dove c'è un presidio di Medici Senza Frontiere. Ah, questo non lo sapevo. Quindi come se fosse una zona di emergenza, una zona di guerra, perché esatto, loro stanno lì in genere, no? E a Napoli, unico posto in Europa, c'è un presidio di Medici Senza Frontiere. Questo, insomma, la dice lunga sulle situazioni di disagio che ci sono da quelle parti. E siccome comunque rimane una città bellissima, non solo per le bellezze naturali, ma anche per la gente, insomma, per tutte le cose che un po' conosciamo tutti, ecco, questo è un po'... è stata un po' l'ispirazione anche di questo brano. Ho capito, e la fine è una fine quasi, non dico drammatica, ma molto, molto sofferta, questo piano, queste note lunghe del piano finale. Sì, il finale forse sottolinea di più, ecco, quest'ultimo aspetto di cui ho parlato, mentre forse la prima parte è più dolce. Sì, più dolce, esattamente. Richiama altre cose. Benissimo. Bene. Adesso richiamiamo la musica noi, cosa dici? Io sai che noi, anzi lo sai meglio di me, insomma, che noi come radio ovviamente, ma soprattutto io e te Maurizio quando facciamo i live, amiamo soprattutto, a parte far conoscere l'animo, la persona in sé, l'artista, gli artisti, ma anche e soprattutto far conoscere la sua arte, che è quello di far musica, di proporre la sua musica. Cosa c'è in scaletta, Mario, adesso? Adesso eseguiamo Nelly e Lilla. Nelly e Lilla è un brano che parla... la morte, un argomento allegro, però in realtà ne parla in maniera molto dolce. E, è una cosa strana questa qui, perché Nelly e Lilla sono due anziane signore decedute che io non conosco, non ho conosciuto, ma ho letto i loro nomi sui manifesti di morto, insomma, quando sono morte, due anzianissime signore. E niente, non so perché, ma mi sono immaginato queste due donne dall'altra parte, tornate giovani, che passeggiavano, insomma, con il loro ombrellino da sole. E ho pensato a questo contrasto, appunto, tra l'idea terribile che noi abbiamo della morte, come la viviamo noi che rimaniamo, e quello che invece io mi immagino che sia di là, al di là delle varie possibili credenze religiose o meno, ma insomma io mi immagino una cosa bella, serena. Nelly e Lilla è nata un po' da questa riflessione. Radio Veneto, come non l'hai mai sentito. Sempre a creare un'atmosfera te, riesci, ti dicevo Mario, riesci sempre a creare un'atmosfera particolare, viene quasi la voglia di chiudere la luce, di ascoltare solo dopo lo faccio, abbiamo già fatto questa esperienza, sì con un gruppo una sera, anzi l'hanno spenta loro e ci siamo messi qui al buio ad ascoltare la musica, che è una cosa splendida. Senti, prima di continuare ti porto i saluti di un tuo collega, lo possiamo chiamare così, credo sia dalla zona di Castelfranco, un pianista, un tastierista, si chiama Enrico, il quale ti sta ascoltando e ti fa i complimenti, appunto, che sei, grazie, certo che sei molto bravo, e grazie. Ne approfitto per salutare anche la cantante, che si chiama Nadia, quindi grazie e ben sintonizzati all'ascolto di Blu Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino, che con Maurizio sta proponendo appunto la musica di Mario, Domenico e Giovanni. Dobbiamo dire una cosa di questo pezzo, intanto è proprio una suite vera e propria questa qua, divisa in tante sequenze, in tanti momenti, in tante facce, la prima parte più malinconica, la seconda parte più divertente, più così gioiosa, come tu giustamente, Mario, hai detto in apertura. Bellissimo pezzo, molto particolare, a me sono piaciuti molto tutti i giochi di percussione di Giovanni, che ha inventato giustamente, ha dato il là, e poi Domenico si inseriva con i suoi cattivi assoli di chitarra, quasi disertici, dondolati dal piano di Mario, chiaramente. L'ho sentita così, questa pseudo mini suite, non pseudo, proprio una mini suite. Senza dire pseudo, assolutamente. Potevate continuare fino alle 10:30, secondo me, con questo pezzo. Senza nessun problema. In effetti, a parte che fai delle descrizioni bellissime, grazie. Non so, se vuoi venire con noi, ti portiamo. Presenta la canzone. A fare i concerti con noi, tu presenti. Esatto. Che va benissimo. Bellissimo. Hai trovato un nuovo lavoro, Maurizio. E comunque sì, rispetto a questo brano, no, è verissimo quello che hai detto. In effetti, nel disco, questo è un brano che si ripete, è sempre uguale. Per quasi 10 minuti, ed è una scelta ben precisa, quindi il fatto che tu hai detto potevate andare avanti così per molto, è un pezzo molto giocato sulla ripetizione, sì. Sì, ma la scelta ipnotica che nel disco c'è, chiaramente ci deve essere, qui è vista in un altro sì, modo. Sì, sì, sì, live, come appunto dicevamo prima, come gli altri brani, è stato un po' stravolto in maniera bella, anche secondo me, sono d'accordo. E c'è questa parte, sì, molto, molto giocosa alla fine, dove facciamo le improvvisazioni, che dà un'apertura insolita, inaspettata, sì. Si può dare proprio uno schiaffo alla morte, come tu giustamente dicevi, sì, all'inizio, sì, di presentazione. Ok, cosa dice Agostino? Ma io... Li facciamo riposare un secondo e poi facciamo un lungo finale solo musicale. Facciamo un altro pezzo da disco. Sì, allora. Così facciamo riposare un momento. Cosa hai scelto? Adesso dal disco ascoltiamo This Day. This Day? No, The, mi pare. La traccia che hai scelto? Che ah sì, The. Numero sì, 9. Numero 9, sì, esattamente. Sì, sì, sì. Esattamente. The, niente, 2. 2. Due si chiama così perché intanto nel brano si ripetono a due le parti quasi identiche, ed è un po' così, molto semplicemente, senza farla troppo lunga, è il simbolo di tutto ciò che è due, insomma, no? Quindi c'è la coppia, degli innamorati piuttosto che quella degli amici e tutte le altre situazioni che uno vuole immaginarsi in due. Certo. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Mi piaceva troppo questo. Ah, ok, per quello, eh. No, per più quello, che altro perché abbiamo capito. Perché volevo, posso permettermi di leggerti una cosa mia? Ma certo. Allora, siccome mi ispirano molto queste note qua, io sono molto per la sensibilità, per la dolcezza. Allora, dicevo, e impari che bastano le note di una canzone per sentire una felicità lieve. E impari che la felicità è fatta di emozione in punta di piedi, di piccole esplosioni che in sordina allargano il cuore. Io vedevo molto questa canzone, allora siccome mi piaceva, finché l'ascoltavo mi venivano in mente queste parole che ancora a suo tempo scrissi. Mi sono permesso, assolutamente azzeccate, direi, adatte alla situazione. Benissimo. Ok, adesso parliamo di una cosa molto interessante che ho letto fra le tue note. Questo sì. Progetto che è in piedi, però è solo in piedi, però si sta allargando, non si sta... Cos'è? Io che amo particolarmente il progressive è una cosa meravigliosa. Vai, vai, Mario, parlami di questo progetto. Beh, insomma, dobbiamo parlarne con molta cautela in realtà, perché... tanto non dipende da noi l'evoluzione di questa cosa. Diciamo che con i Mattanza, appunto, con questo gruppo di ricerca popolare, abbiamo avuto questo contatto con il gruppo del Banco di Mutuo Soccorso, che attraversa un momento difficile, come credo molti sapranno, insomma, per un po' di problemi di salute di alcuni componenti del gruppo. E niente, c'è questo progetto di realizzare una compilation tributo con i brani del banco, ed è stato chiesto anche ai Mattanza di arrangiarne uno. E nella fattispecie noi abbiamo arrangiato Quando la buona gente dice, non so se ve lo ricordate, un brano brevissimo, molto molto bello, molto potente, e che se e quando, diciamo, questa cosa andrà in porto, appunto, sarà inserito in questa compilation. Dicono, ben informati, diciamo, sì, insieme alle versioni degli altri brani del banco fatte da quelli che mi ricordo, Giovanotti, Battiato, c'è un certo personaggio che non conosciamo, si chiama Tom Waits. L'altra sera siamo andati a sentire il suo chitarrista qua in concerto a Padova, proprio l'altra sera, Marc Ribot. Esatto, beh, immenso, un grandissimo musicista. Sì, e poi altri, Finardi, insomma, Bennato, insomma, molti altri. Quindi sì, abbiamo arrangiato questo pezzo naturalmente con le sonorità nostre, con le sonorità di Mattanza. Anzi, l'arrangiamento è partito proprio da questo strumento che io utilizzo insieme alle chitarre nel gruppo di Mattanza, che è la lira calabrese. Ecco, adesso la sentiamo. Che adesso vi facciamo sentire. È una cosa meravigliosa, anche visivamente. Non c'è nel disco, Luce Buia, però la utilizzeremo anche nei tre concerti privati che andiamo ad eseguire nei prossimi giorni qui a Padova. E abbiamo deciso di inserire anche un breve pezzo fatto appunto con la lira e con le percussioni di Gianni. Ce lo fai ascoltare subito? Sì, ve lo facciamo ascoltare subito. Ok. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Bellissimo, cosa dici? Bellissimo. È la prima volta che in assoluto io l'avevo sentita prima di cominciare la trasmissione, la lira calabrese, però una cosa meravigliosa, ecco, uno strumento che non conoscevo. Sono molto contento di averla conosciuta. Ci verrai a trovare un'altra volta, Mario, che così porterai altri strumenti assieme a Giovanni. Sì, senti, ovviamente. Non abbiamo ancora parlato di dati tecnici, nel senso disco dove si può acquistare, il tuo sito e queste cose qui. Sì. Allora, Luce Buia ancora, diciamo, non ha una distribuzione vera e propria, essendo un'autoproduzione, però lo si può acquistare contattando direttamente me tramite il mio sito, che è mariolocascio.it, oppure sul mio MySpace o su Facebook, insomma, sono abbastanza rintracciabile, diciamo, ecco. C'è scritto tutto lì. C'è scritto tutto lì. Sì. E poi nei tuoi concerti si può acquistare anche là. E poi ai concerti, naturalmente, sì. Certo. Prossimi concerti? Prossimi concerti, appunto, come dicevo prima, abbiamo questi tre appuntamenti qui a Padova da domani. Domani, sabato e domenica. Sono tre concerti privati. Sono già sold out. Buon per noi. E poi sì, insomma, dicevo, questo è un progetto che, questo live è un progetto che è partito veramente da pochissimo. Quello che state sentendo stasera, insomma, è stato realizzato veramente in pochissimo tempo, e ancora forse un po' acerbo, è una cosa che deve crescere, deve maturare, e la faremo maturare anche sicuramente con altri live. Certamente la prossima estate, soprattutto giù da noi, diciamo Calabria, Sicilia, ma probabilmente faremo anche un altro piccolo giretto a Roma. Ah, a Roma. Sì, dove appunto ci sono dei posti dove questa cosa può essere proposta bene, nel senso che bisogna anche poi purtroppo selezionare anche i posti dove proporlo questo genere di musica. E poi ci sono anche delle questioni tecniche: noi dobbiamo necessariamente andare nei posti dove troviamo un pianoforte acustico. Certo. Per poter eseguire al meglio, insomma, i brani. Ok. E poi magari finché fate queste esibizioni potete anche incidere un disco, cioè nel senso registrate questo live e poi magari lo mettete in circolazione. Sì, questo sicuramente avverrà. Anche perché è una faccia doppia, diciamo, l'altra versione di Mario e la sua band. Assolutamente sì, lo faremo senz'altro. Io mi prenoto, D'accordo. Benissimo, sono le 22:11, abbiamo ancora circa una ventina di minuti. Da usufruire chiaramente per cosa, Domenico? È personale, mi pare giusto. Mario, cosa hai deciso adesso di fare? Adesso seguiamo Julian's Coming, che è appunto il brano che porta il nome e la storia di mio figlio Giuliano. Perfetto. E anche questa è una suite, è un brano che racconta un po' tutto quello che mi è capitato da quando ho appreso che lui stava arrivando e tutto quello che è successo dentro di me, soprattutto fino a, appunto, alla gioia di adesso di avere questo figlio con cui, insomma, facciamo tante cose, ci divertiamo, suoniamo tanto insieme. Certo. Ecco, questo salutiamo, è il brano anche la mamma. Salutiamo anche la mamma. Salutiamo anche la mamma che ci sta ascoltando, credo. Che si chiama? Che si chiama Maria Rosaria. Ciao Maria Rosaria. Ciao. E poi salutiamo anche Cecilia, che è l'ultima arrivata, che ha solo 4 mesi. E Hai fatto... Sì, abbiamo fatto la coppia. La coppia, benissimo. Che bella, salutiamo cosa. Naturalmente anche Giuliano. Ok. Thank you. Grandissimi, grandissimi a dir poco, sono momenti bellissimi. Sai chi mi ricordavi in qualche momento in questo passo di questa musica? Non so se lo conosci, penso proprio di sì, insomma, perché è un grandissimo. Ianni. No. Quello greco. Sinceramente non lo conosco. Fa New Age, fa un tipo di musica che io adoro, mi piace da matti veramente tantissimo. Day to Dream è un disco bellissimo. Ti consiglio. Può anche darsi che l'ho sentito, sì. Perché io faccio fatica ad associare i nomi. C'hai i capelli neri lunghi con il baffo. Può darsi, sì. È bravissimo. Day to Dream, ascoltati quel disco lì perché è bellissimo. Da particolare questo pezzo molto bello è la che domenica ha usato una tastiera, oltre alla chitarra che hai fatto una sonorità molto particolare, molto dura anche, molto, molto, proprio all'inizio tremenda, e poi hai usato le tastiere, una tastiera hai usato. Sì. Per un suono quasi spettrale in alcuni momenti. Sì. Cioè, non complesso, ma di un certo, poi anche però divertente, poi ci sono stati dei momenti, sì, okay, divertenti, tra virgolette, cioè meno tesi, con meno pathos, però poi si è ripreso questo suono un po' cupo, un po'... potente, decisamente potente. Sì, diciamo che i brani, avendo questa la caratteristica di essere delle sorte di suite, diciamo, sì, in realtà quasi tutto. Questa forse è quella più rappresentativa, mm-hmm, no, di questo modo di comporre, insomma, di Mario. E quindi sei da solo, però hai voglia di usare più strumenti e ci devi passare la chitarra alla tastiera, okay, sì, ci abbiamo provato e sembrava funzionasse. Sì, sì, poi Giovanni ha usato le sue percussioni, mentre Mario riusciva a tener bada a tutti, a voi due, chiaramente, con la sua musica. E non è mica semplice, chiaramente. Ok. Abbiamo il tempo per ascoltare una canzone. Certamente. Però ci salutiamo prima, allora. Chiaramente, noi, sì. Lo ringraziamo. Io vorrei che tu, Mario, ricordassi ancora tutti i vari, come dire, posti dove ti possiamo trovare, dove ti possono trovare per ascoltare ed acquistare la tua, sì, musica. Sì, certo. Mm. E vabbè, intanto i recapiti internet, chiamiamolo così, mariolocascio.it è il mio sito, dove si trovano, insomma, tutte le informazioni e anche tutti i recapiti. E poi, vabbè, il MySpace, sempre Mario Locascio, e Facebook, eccetera. Poi c'è anche il sito dei Mattanza. E se qualcuno fosse interessato anche a seguire quel progetto, lì ci sono anche tutte le informazioni sul prossimo tour di Mattanza. E per il resto, insomma, daremo appunto informazioni su quei siti, sulle prossime date invece di Luce Buia. E ti seguirà anche Giovanni in Luce Buia? E ci seguirà anche Giovanni, sì, ormai questa è la formazione. Quindi, domenico chiaramente sì, oltre la formazione, a sì, questa è la formazione ormai. A meno che lui non... Mi danno da mangiare, non ah, ecco, sì, infatti, consuma poco, consuma poco. Quindi si può e fare. Quindi si può fare, sì. Sì. Ma io devo dire che sono felicissimo che Giovanni abbia accettato di collaborare con me anche a questo progetto, perché... io adoro le percussioni orientali e il modo che lui ha di suonarle, insomma, un altro tipo di percussioni, devo dire, non, secondo me non sarebbe stato adatto, ma per me questo è il massimo, sì. Chiaramente. Mario, un'ultima domanda. Sì. Cos'è l'essenza della musica? Mamma mia. Questa l'hai presa da qualche, sì, parte. Sì, infatti l'ho vista adesso. Siccome so cosa hai risposto. Ma io non la ricordo la mia risposta. L'essenza della musica è, però così a naso dirò che è quella di riuscire a comunicare un senso, certo, un sentimento delle cose, di tutte le cose che facciamo. Penso che la musica debba servire, ecco, a ricordarci, a ricordare a tutti appunto quello, perché troppo spesso facciamo le cose senza pensare al senso che c'è dentro. Certo. Domenico, tu invece, prossimi progetti? Beh, io sono qui a Padova, ah, sì? lavoro sempre con Andrea, come, certo, tu sai. Andrea Adesso Paglianti. Stiamo lavorando al secondo disco di Andrea e siamo, insomma, nella fase di arrangiamenti. Ah. E quindi a buon senza punto. Sì, in realtà siamo a buon punto, però è una cosa senza tempo, non ci siamo dati dei tempi. E quindi vediamo cosa succede. Certo. Avete due splendide ragazze che vi stanno ascoltando, vi portano i loro saluti. Si chiamano Silvana e Raffaella. Vi mandano un bacione. Grazie, grande, le salutiamo. E vi fanno i complimenti. Grazie. Perché siete, grazie, bravissimi. Ciao Silvana, ciao Raffaella. Giovanni, tu hai dei progetti oltre che con Mario? Sì, io diciamo, suono con una formazione di musica marocchina a Crotone. Sono dei ragazzi immigrati che stanno, diciamo, nel crotonese, e appunto poi sono anche nei Mattanza. Ha un sacco di cose da fare. Esatto. Esattamente. Ok. Salutiamo anche il nostro direttore artistico che è arrivato, Alberto è dietro di te, sì. Chiaramente. Ciao Alberto, non perdetevi la prossima trasmissione, perché è inerente alla musica rock. Lui, come certamente sapete, fa la classifica e propone le nuove, cioè le novità della musica rock a livello mondiale. Lui è bravissimo, tra l'altro, a scoprire sempre cose nuove, cioè di quelle particolarità che sono eccezionali. Bene, è venuto il momento di salutarci. Ringraziamo Mario di aver accettato l'invito e di aver fatto onore con questa musica splendida che ci ha comportato avanti per circa un'ora e mezza, insomma. Beh, io ringrazio voi di nuovo dell'ospitalità e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando. Certo. E niente, speriamo di rincontrarci da qualche parte. Un saluto a Giovanni. Grazie a voi per averci invitato. Grazie, saluto, speriamo di rivederti ancora con qualche altro strumento nuovo. Grazie. E se mi consentite, un saluto con affetto al mio caro amico Domenico, perché... Grazie Agostino. Ci sentiamo ormai da tanto tempo e quindi ci vogliamo bene, insomma, perché siamo semplici, giusto? Sì. Maurizio, noi ci sentiamo giovedì prossimo. Sì, la prossima settimana io comincerò questa bel modo di far radio da martedì, come sempre un live, avremo un live martedì, avremo un live mercoledì con la tua regia. Mercoledì. Sì, mercoledì dovrai essere qua e giovedì sarà la tua trasmissione. Che sarà una telefonica mercoledì. Sì, mercoledì giovedì, ci sarai te a condurre la telefonica. Facciamo... Io sono solo un piccolissimo ospite. Ma sarà una trasmissione diversa dal solito. Sì, cioè, ci sono molte sorprese, ma non vi dico niente. Veramente vi aspetto giovedì prossimo. Ciao Mario, ciao Giovanni, ciao Domenico e buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto con appunto Alberto Prisco e il suo programma di musica rock. Ciao ciao. Blu Radio Sera. Thank you.